siete voi, bel ciel, avete fatto paura. Io la rimasi fino a sera, quando un tratto grave mal disparve, e uscì, era già notte, allor decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ave. Date va forse in persona. Perché tremo? piedi di valli, il rimorso era thank you. Fanciulla mia, riprova mia forte amava. Quando a sede provocatrice balda come apparisti, io la credetti una sfida crudele, pur già Oh, Giuseppe. Modi. Giuseppe. Cupo silenzio, la morte laggiù. Thank you. Thank you. Thank you.

di mia nonna questa strana canzone. Fatto il mondo così, Merida si rifiuta la tua brava, ti deride se sorre la tua brava. Fatto il mondo così.

这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的节目。 Decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ave. La teva forse in persona. Parla sommesso, ebbene lo riconobbi. Egli è certo un uomo di coraggio. Perché? Perché mi sono beatura così tarda. Piante solen, lo si teme, qui si voglia, vendicarla dagli. Poi fa, pazzie, però non si sa mai. Vada a dormire lontano, ma la notte è questa. Non mi si piglia. Thank you. Dio, vieni ancora.